Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Scrivo a proposito delle polemiche sull'Unità d'Italia. Alle scuole elementari e poi alle medie ci insegnavano quanto fossero cattivi gli austriaci, un po' come i nemici dei supereroi della Marvel o certi pelle rossa nei vecchi film western. Al liceo il professore ci spiegava come gli austriaci non fossero affatto crudeli, piuttosto si segnalavano per l'ottima amministrazione e la realizzazione di opere pubbliche difficilmente pensabili sotto i Savoia. Il Risorgimento ci veniva spiegato, in somma sintesi, come un moto borghese difficilmente pensabile se non ci fossero state imposizioni daziali e balzelli vari, percepiti come troppo iniqui dalla borghesia commerciante del tempo, un po' come la rivolta del tè negli Stati Uniti. Insomma, era un problema di tasse. Poi vado in Austria e resto colpito dall'efficienza della cosa pubblica, dalla quantità e bontà di infrastrutture in relazione ai bisogni del paese e soprattutto dalla percepibile migliore qualità di vita, specie se paragonata a quella del meridione del nostro paese. Allora la domanda mi pare quantomeno lecita. Al di là del rispetto per chi ha dato tanto fino alla vita per coronare il sogno dell'Unità d'Italia, mi chiedo se davvero noi lombardi, che pure, come ricorda Galli della Loggia, tanto ci siamo adoperati per unire l'Italia, non ci abbiamo smenato, al di là del probabile bilinguismo diffuso, a non essere oggi cittadini austriaci, con Vienna invece di Roma capitale. Porsi questo tipo di domande al di là di ogni retorica potrebbe forse aiutarci a crescere e migliorare questo nostro paese. Roberto. Capisco quelli che pensano che l'Unità d'Italia non sia da festeggiare. Basta vedere cosa accade tutto l'anno rispetto all'estero. Giusto per confronto, basta andare nella vicina Confederazione Elvetica, dove il vessillo rosso crociato sventola quasi ovunque sempre, spesso anche nel giardino di private abitazioni, o in Francia, dove il tricolore francese è presente perfino nei piccoli comuni sperduti, oppure negli Stati Uniti, patria del federalismo, dove la Stars and Stripes sventola su qualsiasi edificio pubblico e non solo. In Italia il tricolore è appannaggio delle giornate del 25 aprile, delle scuole e dei comuni, anche se non sempre, e di qualche manifestazione locale. Come si fa a costruire l'Unità d'Italia se uno dei pochi simboli che la rappresentano è spesso dimenticato in soffitta o utilizzato solo in occasione dei mondiali di calcio? Certo, è anche vero che la nostra unità è di acquisizione recente e spesso sottoposta a tensioni nord-sud che non sono nemmeno immaginabili in altri paesi e a spinte secessioniste ben note che non possono giovare allo spirito unitario. Penso sia da festeggiare comunque, nonostante la riscrittura critica dell'epopea garibaldina. Andrea. Caro direttore Fabi, di fronte alla quantità di problemi attuali, agli scandali veri o presunti, alle difficoltà economiche e sociali che gli italiani si vedono scodellare ogni giorno dai media, sembra quasi un lusso quello di perdersi in festeggiamenti per l'Unità d'Italia. Oltretutto c'è il problema della verità e falsità storiche da mettere in luce. Sì, perché se anche attualmente facciamo fatica a capire quale sia la vera realtà, nonostante il diluvio informatico, perché dovremmo credere che la storia che ci hanno raccontato a scuola sia tutta da credere? Non le sembra che un modo degno di festeggiare questa ricorrenza sia proprio quello di far luce sulla vera storia risorgimentale? Forse questo ci aiuterebbe anche a leggere meglio il nostro presente. Ma forse certe potenti forze economiche e culturali non hanno interesse a farci conoscere questa verità. Questo l'autorevole parere del grande romanziere russo Dostoevskij. Claudio. Gentile direttore, non le sembra che tutte queste polemiche sull'Unità d'Italia e sulle celebrazioni previste per il prossimo anno siano fatte apposta per mettere in secondo piano gli altri problemi del paese? Anche se non mi pare che questo sia il momento più opportuno per spendere soldi per manifestazioni celebrative, in un paese in cui cresce la disoccupazione e per i giovani è sempre più difficile trovare un posto di lavoro. Antonio. Caro Antonio, i 150 anni dell'Unità d'Italia cadono il prossimo anno, del 2011, e in questo caso non si può attuare l'abitudine italiana di prorogare le scadenze e rinviare gli impegni. Peraltro, i progetti in discussione per queste celebrazioni non prevedono che in piccola parte il finanziamento di manifestazioni e spettacoli, che comunque danno lavoro a un certo numero di persone. La maggior parte degli impegni riguarda la realizzazione di opere destinate poi a durare nel tempo e ad offrire servizi di pubblica utilità. Mi sembra tuttavia del tutto disarmante che il momento della celebrazione dell'Unità d'Italia sia fonte di polemiche e divisioni, con il rischio di un prevalere dell'individualismo e della difesa di interessi personali e particolari. Ma in questo caso bisogna ribaltare l'affermazione di Adamo Smith. Non è perseguendo l'interesse individuale che si fa automaticamente l'interesse generale, ma il valore dell'unità della nazione deve essere un punto di riferimento per perseguire meglio e con l'apporto di tutti anche gli interessi dei singoli e delle comunità locali. Vorrei capire le ragioni che hanno spinto tutti i mezzi di informazione a dirci che il salvataggio della Grecia costerà 108 euro a ciascun tedesco, 92 euro a ciascun italiano, eccetera. A me risulta che stiamo solo prestando dei soldi alla Grecia al tasso del 5%, e a meno che non diamo per scontato fin d'ora che la Grecia finirà in default, il prestito non solo non ci costerà nulla, ma anzi ci renderà la differenza tra il tasso del 5% che la Grecia ci pagherà e il tasso molto più basso che il nostro Stato pagherà sui buoni del tesoro che saranno emessi per raccogliere il denaro da prestare appunto alla Grecia. Anziché dire che questo salvataggio ci costa 92 euro a testa, alcuni mezzi di informazione corretti avrebbero invece dovuto dirci che il salvataggio ci renderà circa 2,30 euro all'anno a testa e oltre 3 euro all'anno a testa ai tedeschi, dato il più basso tasso di interesse pagato sui titoli di Stato del tesoro tedesco. Sembra quasi che la notizia sia stata data in questo modo per esacerbare gli animi degli europei contro la Grecia, quando non ce n'era proprio bisogno. Non stiamo facendo un regalo a nessuno, anzi stiamo facendoci pagare il 5% di interesse da quei poveracci dei greci che non navigano certo nell'oro, pur con tutta la finanza allegra a cui, come ci hanno detto i giornali, il loro governo si sarebbe lasciato andare negli ultimi anni. Ugo. Visto che la Grecia ha frodato con dati falsi l'Europa sia al momento dell'ingresso che negli anni seguenti fino ad oggi, per quale motivo non viene semplicemente espulsa dall'Europa stessa? Per un simile reato, qualunque cittadino o organizzazione sarebbe portato anche in giudizio per anni. Perché una nazione no? Visto che stanno minando la possibilità di una ripresa e si corre veramente il rischio di un crollo con effetto domino, con effetti pesantissimi sulla vita di mezzo miliardo di persone. Luciano. Ho sempre amato il calcio. Ricordo la prima volta, il mio primo ingresso a San Siro. Dal buio del passaggio vedevo quel lembo di verde diventare sempre più intenso e il vociare del pubblico cresceva insieme alla mia emozione. Una delle cose più belle che mi siano mai capitate. Ed è sempre il verde che mi ha riempito di gioia quando ho visto in una vetrina le prime partite a colori. Non avrei mai immaginato che 30 anni dopo di quei capolavori della tecnologia ne avrei avuti 3 in casa. Che felicità! Ma che tristezza invece oggi. Oggi il calcio è diventato grigio, non bianco e nero, grigio, senza quel contrasto e quei giochi di luce dei film mattutini di aprile. Grigio come il mio cuore. Remo, Milano. Quando si fa tarda sera, è difficile vedere qualcosa di bello in TV. Una di queste sere, però, mi sono imbattuto in uno speciale che raccontava il calcio dal dopoguerra fino agli anni Ottanta. Quel contenitore di immagini d'archivio favoleggiava uno sport diverso da quello che io, poco più che trentenne, conosco. Ingredienti come l'umiltà dei calciatori lo rendevano differente. Credo che fosse uno sport diverso anche negli ambienti. Le immagini erano lontane solamente dalla realtà, ma non altrettanto nel tempo. Fotogrammi di interviste rilasciate da calciatori che sono poi rimasti nella storia, con alle spalle una parete bianca, in verità anche sporca qua e là, senza nemmeno l'ombra di uno sponsor. Chissà se a quei tempi qualcuno avrebbe mai potuto immaginare che quel tipo di calcio un giorno non sarebbe più esistito, che gli spalti si sarebbero svuotati e che gli stadi si sarebbero rimpiccioliti perché la gente avrebbe avuto paura di andarci. Scelte di vita e interessi economici, d'accordo. Però il calcio oggi forse dovrebbe recuperare quella semplicità che aveva un tempo, semplicità che io non conoscevo fino a poche settimane fa. Quella sera ho capito perché, quando mio nonno parla di calcio, novantenne il prossimo 11 maggio, lo fa in tutt'altro modo. Alessandro. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.